the face of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. And welcome to Hannity, home of all the news that is not White House approved. The administration doesn't want to hear what we have to say. They want to silence us, they want us to shut up, they want us to get in line. Ci vogliono mettere la museruola, ci vogliono far star zitti. E sta salendo di temperatura come una improvvisa influenza giorno dopo giorno. La guerra ormai aperta, guerra aperta tra Fox News, il canale informativo di maggior successo in questo momento in America, e la Casa Bianca. Le notizie si succedono, l'ultima interessante è una pesante, decisa presa di posizione di Newsweek, il grande settimanale che fa opinione in America insieme al collega Time. Presenta a firma di uno dei suoi editorialisti, Jacob Weisberg, un editoriale che non è che le mandi proprio a dire a Fox, è intitolato The Garbage Factor, gioca col nome di O'Reilly, uno dei più noti anchorman di Fox, ma in sostanza dice il fattore immondizia o il fattore monnezza, se lo vogliamo romanizzare e rendere un po' più cinematografico questo titolo, che già in un certo senso racchiude la posizione del giornale nei confronti della condotta di Fox. Dice, racconta come Fox neghi qualsiasi addebito da parte della Casa Bianca, che l'accusa di essere parziale, di prendere una posizione volutamente distruttiva nei confronti dell'operato dell'attuale amministrazione. Sottolinea come Fox alla fine scarichi qualsiasi accusa e risponda sempre andate a lavorare, in un certo senso, no, a quelli della Casa Bianca, che naturalmente un certo numero di americani accoglie con piacere questo invito polemico nei confronti dei capi del paese durante questa amministrazione. Per rispondere all'accusa che Rupert Murdoch ha appena rivolto all'amministrazione Obama di essere anti-americana, guardate le parole come sono virali, no? Come girano per il mondo alla velocità della luce. Ormai ci stiamo abituando a sentir parlare di atteggiamenti anti-italiani, anti-nazionali. Beh, lì non stanno meglio, hanno un Murdoch inglese-australiano che dà all'amministrazione Obama della anti-americana, e poi c'è un grande editorialista come il già citato Weisberg di Newsweek che dice che Fox è un-American, che sarebbe non americana, an-americana, non so come dire. Insomma, si litigano poi alla fine sul crinale, sulla punta di un ago, ma quelle che si danno non sono carezze, sono delle gran botte. E in sostanza l'articolo in questione sottolinea come gli americani siano stati allevati nel culto della indipendenza giornalistica, ma che adesso un tycoon potente di successo come Murdoch sta facendo qualcosa di diverso. Perché lo sta facendo? Anche nell'articolo è scritto a chiare lettere, purtroppo o per fortuna non per una questione politica. Non è che Murdoch ha particolarmente in antipatia Barack Obama o i democratici e in favore invece dei repubblicani, anche se si può sospettare questo, ma in realtà Murdoch ha avuto una semplice intuizione affaristica, ha capito che c'è una fascia, una nicchia, una nicchiona di pubblico enorme che vuole sentirsi dire certe cose, che non è soddisfatto dell'amministrazione, non è soddisfatto dello statalismo di Obama e dei suoi, che vuole sentirsi cantare una canzone diversa, e che da lì c'è da fare quattrini, e quindi l'indipendenza giornalistica può andarsi a fare benedire. I argued for more resources and more troops to finish the fight against the terrorists who actually attacked us on 9/11. The reality. E questo è un po' l'andamento della informazione americana in questo momento. Sentite queste voci profonde, un Obama che viene subito contestato da uno speaker che sa come dirla e dice: ma non raccontare più delle fandonie agli americani, le cose stanno diversamente. Questo per introdurre un altro fattore di disturbo, probabilmente protagonista nella politica dei prossimi mesi, almeno per quello che riguarda Washington. È una organizzazione appena decollata che a capo ha niente meno che Liz Cheney, ovvero la figlia dell'ex vicepresidente, del numero 2, forse anche 1.5 dell'amministrazione Bush, si chiama Keep America Safe, teniamo l'America al sicuro, si focalizza sulla sicurezza nazionale e mette in dubbio tutte le scelte di Obama e dei suoi riguardo soprattutto al comportamento nel mondo. Pensate che a far capo nel direttorio di Keep America Safe figurano William Kristol, l'eccellente grande giornalista, peraltro direttore del Weekly Standard, un settimanale conservatore ma di grande equilibrio, anche di grande acume, e Deborah Burlingame, che sarebbe la sorella del pilota del famoso volo 77 dell'American Airlines, uno di quelli andati giù l'11 settembre a causa dell'attentato terroristico. Quindi c'è anche un fattore emotivo, cresce in America qualcosa che io definirei a tutti gli effetti una febbre pre-elettorale. Primo piano. Quindi conviene sbrigarsi a sistemare le cose nel mondo prima che ci si debba concentrare a tutto spiano a vedere come vanno le cose interne. Tra l'altro non abbiamo oggi tempo di farlo, ma ci sono grandi preoccupazioni tra i democratici per il cattivo andamento della raccolta fondi in vista delle imminenti elezioni di medio termine. I contribuenti non danno, i grandi contribuenti danno ancora meno perché sono incavolati, leggi le banche, leggi Wall Street. Non danno una lira alla causa di Obama o degli obamiani comunque, ma ci torneremo su questo per parlare invece del personaggio la cui voce avete appena ascoltato, ovvero Hamid Karzai, che come sapete ha accettato di rifare in sostanza, se non tutto da capo o un bel po' da capo, ovvero le elezioni in Afghanistan in sede di ballottaggio, una grande vittoria, una piccola grande vittoria americana che va tra l'altro creditata in particolare all'operato di John Kerry, l'ex candidato democratico alla Casa Bianca 2004, che ha saputo, e a questo punto gliene va dato atto, ha saputo ricostruirsi una carriera e riparare una reputazione un po' ammaccata grazie a questa sua capacità, tra l'altro continuata, insistita, ribadita, di muoversi sugli scenari internazionali. E io proprio a questo team che attualmente si sta allestendo, seppure in modo così un po' irregolare rispetto alle procedure, ma composto da Hillary Clinton, da John Kerry e da Joe Biden, vicepresidente, il triunvirato che in questo momento sta forse sostituendo, sostenendo, aiutando assai Obama in chiave internazionale, vorrei dare una indicazione di plauso. Mi sembra si stiano comportando con grande prudenza e stiano ottenendo risultati. Tra l'altro Hillary Clinton, dopo essersi felicitata per la decisione delle autorità di far svolgere il secondo turno delle elezioni presidenziali, saranno il 7 novembre prossimo, quindi estremamente imminenti, ha offerto un aiuto americano per l'organizzazione dell'appuntamento elettorale. Come dire, fate fare un po' a noi, no? Fateci gestire le urne. Non so se questo avverrà e fino a quale livello, ma certamente è interessante, anche se di pasticci ne hanno fatti anche gli americani. Il voto della Florida, no? Vale un po' per tutti. E verranno sostituiti, e questa è una notizia di poco fa, più della metà dei responsabili delle elezioni per evitare il rischio di ripetersi di brogli nei ballottaggi. Lo ha annunciato un portavoce a missione ONU in Afghanistan, ha detto più di metà dei coordinatori di distretto vengono sostituiti dopo che l'organismo di controllo dell'ONU ha trovato prova di frodi e di brogli diffusi. Sotto l'egida e il controllo degli americani si rifà, come dicono i ragazzini. Vedremo se Karzai otterrà i risultati che cerca. Per intanto ha ricevuto una telefonata di felicitazioni da Barack Obama e una pacca sulle spalle virtuali da Joe Biden, lo stesso che pochi giorni fa a pranzo con lui, con Karzai, che gli diceva che non ne voleva sapere di fare le elezioni, a un certo punto si è alzato e ha detto: "Bah, per quanto mi riguarda il pranzo è finito". Where you find me, where you find me. Buongiorno America. Sono Max. Sono un esploratore. Io viaggio per mare. Un tempo viaggiavo in aereo. Naturalmente. Beh, prima, alla fine della prima parte di Buongiorno America, vi abbiamo fatto sentire la musica di questo film. Adesso questo è il trailer, poi c'è anche l'imprinting di Barack Obama presidente, quindi per carità non si discute, tocca andarlo a vedere. Lo hanno fatto gli americani nel weekend di uscita, mettendolo in testa alle classifiche, in testa alle classifiche di incassi, al box office, 30 milioni e passa di dollari. Questo film di cui appunto oggi si festeggia il successo in tutte le televisioni americane, gli americani se ne stanno accorgendo prendendo il caffè, come vi raccontiamo sempre qui a Buongiorno America. Il film si chiama Nel paese dei mostri selvaggi, è firmato da uno dei più virtuosi registi della scena di qualità americana, no? Proveniente dal cinema indipendente, Spike Jonze, e ex tra l'altro fidanzato di Sofia Coppola per gli amanti del gossip, autore di meravigliosi videoclip che hanno fatto praticamente la storia del video musicale, e qui responsabile questa trasposizione cinematografica di una grande favola famosissima. Poi chissà quanti di voi l'hanno regalata ai bambini, no? Su una favola che, se non sbaglio, in tutto sono una decina di righe, non di più, però è contenuta in un grande libro illustrato, dove si racconta con tutta la visionarietà possibile, no, dei grandi illustratori che ci hanno lavorato, la storia di questo bambino Max, il bambino disobbediente che finisce in un'isola dove ci sono mostri con un cuore grande così, ma anche molto cattivi, perché bene o male sempre di mostri si tratta. Insomma, Obama è andato a vedere il film, anzi se l'è fatto portare, perché lui se li fa giustamente portare a casa. Sasha e Malia si potrebbero essere spaventati, ma Barack comunque ha detto che invece il film vale la pena, fa anche il critico cinematografico in attesa di vincere probabilmente un Oscar, come dicono i maligni. Ha detto: quando ero piccolo amavo il libretto di Sendak, e abbiamo visto il film domenica, ne vale la pena. Il film è in uscita anche in Italia, insomma a questo punto potete prendere posizione anche in chiave politica, no? Se andare a vederlo o no, a seconda che vi fidiate o no del presidente tuttofare. Director Roman Polanski back in jail after undergoing a series of medical tests at this. Questa è una classica voce Associated Press, di quelle che possono annunciare la nascita del millesimo bambino o una tragedia epocale con lo stesso tono. Qui sta raccontando una notizia che in realtà ha piuttosto impressionato il mondo dello spettacolo americano. Infatti sono molti servizi, CNN ne ha appena messo in onda uno. Polanski in sostanza resta in galera, e la cosa sta prendendo veramente una piega imprevista e anche piuttosto così preoccupante per almeno la salute del regista franco polacco 76enne, ormai da circa un mese dietro le sbarre. E tra l'altro le autorità svizzere sarebbero state responsabili dell'avviso agli americani, no? C'è stata una forte collaborazione il 26 settembre tra autorità svizzere e americane per incastrare Polanski all'aeroporto di Zurigo. La Associated Press si sarebbe procurato una serie di email che mostrano che la Svizzera avrebbe avvertito gli Stati Uniti dell'arrivo di Polanski al Festival del Cinema di Zurigo. Gli americani si sono sempre rifiutati di precisare come avevano appreso, no, questa notizia. Per l'intanto niente libertà su cauzione, perché potrebbe scappare, come fece nella nefasta occasione di 30 anni e passa fa, quando se ne andò dall'America per non affrontare il processo. Quindi per ora situazione di stallo, ma notizie non buonissime per Polanski, naturalmente. Notizie non buonissime anche per Rio de Janeiro. Sui giornali americani di oggi cominciano a consumarsi le vendette, era prevedibile. Hanno fregato le Olimpiadi a Chicago, hanno fatto fare una figuraccia a Obama, e adesso partono le ritorsioni. Leggi articolone sul New York Times, campeggia in pagina a firma di Alexei Barrionuevo, e in sostanza racconta come a un chilometro dal Maracanã, dove probabilmente si svolgerà la cerimonia inaugurale finale delle Olimpiadi 2016, gli spacciatori, una banda di queste enormi bande di trafficanti di droga, avrebbero semplicemente tirato giù a colpi di mitra e fucile un elicottero della polizia, perché lì fanno così, non vanno per il sottile, sparano. C'è quel grande film che abbiamo visto al Festival di Berlino di recente, che ne racconta le gesta di costoro. Insomma, favelas, mitragliate, elicotteri che cadono. Il New York Times prova a, come dire, a spalare un po' di fango sul Rio e sulle sue per ora lontane Olimpiadi. So who won the booking race for Governor Sarah Palin's first book interview? Oprah. Now, according to Harpo Productions, e questa è di nuovo Oprah, è di nuovo Fox News, scusate, per annunciare un discreto colpo di scena mediatico, insomma, uno non si sarebbe mai concretizzato solo qualche mese fa, che però le cose cambiano, forse anche le opinioni si modificano, e adesso sta per andare in scena. In sostanza, Oprah Winfrey si è assicurata l'intervista con Sarah Palin in coincidenza con la uscita il 16 novembre ufficiale di quel famoso libro, no? Going Rogue, diventando farabutta, l'abbiamo tradotto noi, con cui Sarah Palin racconta la propria storia, già un campione di vendite assoluto in prevendita, prima ancora che esca. Oprah Winfrey, che non conosce, non ha mai incontrato Sarah Palin, le ha offerto una intervista one on one nel suo seguitissimo show, e Palin ha accettato. Obama, secondo me, questa volta ha un po' masticato amaro. Guardate, abbiamo solo un minuto e una musichetta molto firmata, anche questa di Halloween, ma vogliamo cogliere l'occasione per darvi modo di divertirvi con i vostri figli. Andate sul sito di Newsweek, armati di una stampante e di una forbice, in pratica ritaglia e indossa le maschere di Halloween più divertenti di stagione. È una roba esilarante, vi consiglio di farlo. Dunque, se siete dei giovanotti, per esempio, potrete scaricare la maschera di Bruno, no? Sacha Baron Cohen, il nuovo Borat. Se siete gli uomini, insomma, di mezza età, potete diventare Rod Blagojevich. C'è una magnifica mascherina con tanto di ciuffo per la notte di Halloween. Se siete signori di una certa età, niente di meglio che la maschera con tanto di basettoni di Bernie Madoff, quello che ha fregato tutto il mondo e finirà i suoi giorni in galera. Se siete una signora matura, magari anche un po' portante, come si dice, avete la mascherina di Susan Boyle per spaventare i vicini a Halloween. Se invece siete una bella ragazzotta e volete divertirvi, arriva su Newsweek la mascherina di Lady Gaga, e vi vorrei vedere. Se poi non sapete come scegliere, non sapete neanche chi siete, in effetti potete scaricare la mascherina della influenza suina, ovvero un maiale con a sua volta una mascherina sul naso, poi vi vestite in latex rosa e vi fate arrestare. Su Newsweek, andatele a tagliare, così avete un Halloween in salsa americana. Questo è Buongiorno America, vi racconta anche, insomma, nefandezze di questo genere. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Pietro Lacorte a Milano. La mail è buongiornoamerica@radio24.it. Su Facebook ci chiamiamo invece redazione Jefferson 3. Andiamo in replica dopo mezzanotte, in diretta dopo l'una e mezza qui da Radio 24, e voi state tutti bene.